Nel campo religioso, la tentazione è il momento nel quale l'uomo viene istigato dal peccato, sia come prova per conoscere la capacità di sottostare alla legge morale, sia come invito o stimolo a compiere azioni moralmente cattive. Assieme alla sofferenza, la tentazione è l'esperienza più comune a tutti gli esseri umani. Prova ne è che perfino Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come uomo fu spesso tentato dal diavolo senza però peccare, mentre anche i grandi uomini di Dio hanno ceduto alla tentazione commettendo i più svariati peccati. Proprio perché si tratta di un'esperienza quotidiana nei confronti della quale siamo tutti fragili, Gesù nella preghiera del Padre nostro ci ha insegnato a chiedere di non essere indotti in tentazione. Questa preghiera ha ovviamente il presupposto di non dare occasione al diavolo di tentarci parlando e comportandoci in modo sconveniente, perché se io frequento compagnie che non hanno principi morali sani o mi nutro ogni giorno di pornografia, è evidente che sia tentato dal diavolo a compiere azioni o ad avere pensieri che non sono graditi a Dio. Se invece i miei pensieri si nutrono di cose che sono veraci, di cose oneste, giuste, pure, amabili, di cose di buona fama, dove vi è qualche virtù, qualche lode, Filippesi 4.8, allora, se il diavolo vuole tentarmi, deve usare altri mezzi. Perciò, il giusto, cioè colui che ha un comportamento conforme al volere di Dio, non subisce le tentazioni prodotte dall'iniquità dei malvagi, e neppure si trova a dover resistere, snervato da pressioni da lui stoltamente cercate e create. Anche se meno come Gesù prima o poi si troverà nella morsa della tentazione. E questo è il punto. Il giusto non è esente dalla tentazione, ma le istigazioni alle quali sarà sottoposto non saranno uguali a quelle del malvagio, ma avranno una connotazione morale lecita, tentazioni queste, che assalgono pure il malvagio. Così il giusto, ed è bene ripeterlo, cioè colui che ha un comportamento conforme al volere di Dio, incorre molto meno nella corruzione, perché evita le pressioni derivanti da una condotta iniqua. Se frequento una compagnia dove si legge la parola di Dio e si prega Gesù Cristo, è evidente che avrò meno tentazioni di un giovane che frequenta una discoteca dove si spaccia la droga e giovani ragazze si propongono nel campo sessuale. Frequentare una compagnia dove si legge la parola di Dio e si prega Gesù Cristo non evita assolutamente le tentazioni, occorre sottolinearlo, perché l'orgoglio, la presunzione, il rancore possono sempre esistere. Ma non ci sono tentazioni scatenate da luoghi inopportuni. Anche se è un fatto risaputo da molti, è bene mettere in risalto che la tentazione non è un peccato. Altrimenti, se così fosse, essendo stato tentato anche Gesù avrebbe peccato, e il credente nella prova della tentazione sarebbe nel... Ma poiché la tentazione è solo un'esperienza mediante la quale si è provati per conoscere le nostre capacità di sottostare alla legge morale, o si è semplicemente stimolati a compiere azioni moralmente cattive, occorre guardare alla tentazione come motivo di gioia e di lode. Quali sono dunque quelle tentazioni del giusto che non scaturiscono dalla malvagità ma da cose lecite? Certamente sono varie, ma ne prenderemo in esame 5 tanto comuni, che spesso sfuggono alla nostra attenzione. Queste tentazioni sono la miseria, la ricchezza, il regalo, l'ingiustizia e l'oppressione. Prendiamo in esame ogni aspetto. 1. Proverbi 37 a 9. La miseria. Io ti ho chiesto due cose. Non negarmele prima che io muoia, allontana da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario perché, una volta sazio, non ti rinneghi e dica chi è l'Eterno, oppure divenuto povero, non rubi e profani il nome del... Il salmista ha pregato di poter vivere in modo dignitoso, perché è cosciente che la povertà potrebbe indurlo a compiere gesti inconsulti, come rubare o mentire. Per la povertà purtroppo ci sono state donne che hanno venduto il loro corpo pur di sopravvivere e di poter mantenere anche una famiglia e un giudizio affrettato in merito, non scaturirebbe da carità cristiana. Proprio perché è cosciente che la povertà porta a compiere azioni che non si commetterebbero in momenti di benessere, il salmista chiede di non essere tentato dalla povertà. Chi conosce la sua fragilità non può che pregare come il salmista, e chiedere a Dio di non trovarsi in nessun tipo di povertà come anche una necessità affettiva o di onore. Preghiera questa racchiusa nelle sante parole di Gesù quando ci insegnò di chiedere a Dio di darci il nostro pane quotidiano. In quel pane quotidiano sono racchiuse tutte le nostre necessità. E la gioia del giusto sta nel sapere che anche qualora venisse meno il nostro pane quotidiano, la grazia di Dio è sufficiente. 2. Proverbi 30, 7 a 9. La ricchezza. Io ti ho chiesto due cose. Non negarmele prima che io muoia. Allontana da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza. Cibami del pane che mi è necessario perché, una volta sazio, non ti rinneghi e dica, chi è l'Eterno? Oppure, divenuto povero, non rubi e profani il nome dell'Agur. Non ha chiesto a Dio solo di essere esentato dalla tentazione della povertà, ma anche quella della ricchezza. Se oggi vi è una preghiera anacronistica, è proprio il chiedere a Dio di non diventare ricco. Lo dimostrano tutte le migliaia di giocate al lotto, alle lotterie, a qualsiasi altro gioco dove vi sono in palio milioni e milioni di euro. Si potrebbe obiettare che si gioca solo per avere una situazione economica più sicura, ma di fatto ormai nella mente della gente vi è la fissazione di voler diventare ricchi. Ebbene, in questo clima, il giusto non prega di diventare ricco, ma di avere il necessario per vivere temperatamente, giustamente, piamente. Tito 2.1.2, perché se è una grande tentazione essere poveri, non lo è di meno essere ricchi. Per ricchezza non si intende solo quella del denaro, ma ogni forma di autosufficienza che non porta l'uomo ad essere nella necessità. In quest'ottica, l'uomo di oggi ha raggiunto un certo benessere e autosufficienza tali da potersi comodamente definire ricco, e questo ha del positivo. Ma accanto alla ricchezza economica ne sta un'altra paragonabile a una spada di Damocle, cioè l'autosufficienza nel campo spirituale. All'uomo agiato e autosufficiente di oggi s'addicono più che mai le parole di Gesù. Beati i poveri. Espressione rivolta soprattutto nel campo spirituale. Così, aver raggiunto un'indipendenza economica e spirituale è una delle tentazioni più pericolose. E il giusto, cosciente di questo, cercherà non soltanto di non cadere nel rubare in caso di necessità, ma anche di non dimenticare Dio in caso di prosperità. 3. Esodo 23, 8. Il regalo. Bisogna riconoscere che il regalo è un gesto molto importante per la convivenza, lo testimonia anche la Scrittura. Un dono fatto in segreto placa la collera e un regalo sottomano calma l'ira violenta. Proverbi 21 e 14. Però, pur essendo una delle più belle espressioni di amore e di affetto, quando viene fatto con lo scopo di corrompere è un'arma micidiale. Anche questa realtà è fatto presente dalla parola di Dio. Non accetterai alcun regalo, perché il regalo acceca chi vede e perverte le parole dei giusti. Da notare che il regalo, meno o anche grossi favori meno, non sono una cosa malvagia in sé, per questo il giusto può anche non farvi caso, ma chi è accorto e desidera essere irreprensibile si guarderà dall'essere tentato accettando favori o regali da chi, compiendo tale gesto, si aspetta per riconoscenza di essere contraccambiato con un aiuto a ottenere qualcosa raggiungibile solo mediante una perversione della giustizia. Salmo 125, 3. L'ingiustizia. Lo scettro dell'empietà non riposerà per sempre sull'eredità dei giusti, perché i giusti non stendano le loro mani a compiere il male. Non cic è tentazione alla nostra morale così forte come l'ingiustizia, perché il nostro giudizio del bene e del male ci parla con un megafono. Possiamo tollerare la tentazione della fame e della ricchezza, possiamo essere accorti ai regali fatti con lo scopo corromperci, ma quando vediamo l'ingiustizia, come si dice, vediamo rosso. La prima reazione, secondo la nostra inclinazione umana, è di fare vendetta o di ripagare con la moneta ricevuta, ma questa tentazione a farsi giustizia può essere vinta solo se si tiene presente la sovranità di Dio. Di fronte all'ingiustizia, il giusto, essendo tale, essendo quindi animato da un senso di giustizia, è tentato più di chi non ha il timore di Dio. Mentre l'ingiusto non ha problemi morali nell'agire scorrettamente, il giusto, desiderando giustizia, vorrebbe farla da sé o vederla fatta nell'immediato. Proprio per questa debolezza Dio il più delle volte provvede a liberare, anche in tempi brevi, il giusto da una situazione di ingiustizia. Quando invece la liberazione ritarda, questo fa parte dei suoi insondabili piani. 5. Eccetera. 7. 7. L'oppressione. L'oppressione rende insensato il saggio. Se l'ingiustizia è una tentazione per il giusto, l'oppressione lo è ancora di più. Una cosa è trovarsi in una situazione di ingiustizia dalla quale si è coscienti di poter qualche modo scampare. Altra cosa è essere continuamente sotto al torchio dell'ingiustizia senza vedere alcuna luce che indichi una fine al tunnel del dolore. Abbiamo però un esempio nella parola di Dio che non deve essere dimenticato. Israele è stato oppresso in Egitto per 400 anni e sembrava che questo dovesse non finire mai, ma al termine dei piani preannunciati da Dio è stato liberato. Molti non hanno visto la liberazione del loro popolo. Forse avranno pensato che Dio si fosse dimenticato di loro, ma con la loro pazienza, la perseveranza e la fede sono stati strumenti di liberazione per le generazioni future. Queste 5 cose tentano in modo particolare il giusto, la povertà, la ricchezza, il regalo, l'ingiustizia e l'oppressione. Il giusto che è accorto si guarderà da ogni tentazione, ma soprattutto da queste, perché esse non sono il risultato di un suo comportamento malvagio, ma fanno parte dei piani di Dio. Di fronte alle tentazioni il giusto sa che il giusto giudice prende in esame ogni fattore mentale, morale, fisico, e ogni azione viene valutata tenendo conto dell'atmosfera circostanziale e dell'ambiente in cui è stata compiuta. Il giusto sa che Gesù valuta sulla base della luce della quale eravamo stati dotati, tiene conto della nostra capacità di discernimento, delle influenze buone e cattive a cui eravamo sottoposti, dei moventi che ci hanno mosso determinati gesti, delle possibilità che abbiamo accolto o respinto, delle pressioni subite, delle conseguenze alle quali siamo andati incontro col nostro comportamento. Proprio per questo il giusto è sempre sereno, soprattutto nelle tentazioni. Marzo 2007. Ellero.